Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E dopo questo bellissimo salto negli anni 80 ritorniamo in diretta qui su Radio Stonata. Ultimamente i nostri programmatori musicali ci deliziano di queste chicche anni 80, anni 90, però vabbè, ritorniamo invece a parlare di viaggi. Ve l'ho annunciato nella presentazione della puntata di questa sera e per me è un piacere, un onore ritrovare quel non solo turista, quello bello e prezioso, ragazzi, cioè così è il nostro Manuel Gianantonio. Ciao Manuel, buonasera e ben ritrovato. Ciao Beppe, grazie, è sempre un piacere, ciao. No, però ci sta questo, sai, questo mistero che avvolge, cioè, sei quei bellocci, sai, misteriosi. Sai. non so come prenderlo, però... No, prendilo bene perché no, anche... l'eccezione positiva. Sì, sì. Nell'eccezione positiva. L'ho detto in apertura di trasmissione questa sera, correndo, non so se si è capito, però questa sera con te parliamo di Giordania e nell'articolo che c'è il link sulla pagina Facebook Il Viaggio, oppure lo trovate su Non Solo Turisti, no, sulla pagina Facebook di Radio Stonata, comunque io insomma chi ci ascolta mi metto, l'ho letto l'articolo, però mi metto dalla parte di chi ci ascolta che non ha letto l'articolo e starà adesso che sto spulciando. Cioè, la Giordania non è un paese pericoloso, Manuel? Diciamo che per la mia esperienza personale, non solo, magari ho avuto modo di confrontarmi anche con altre persone e organizzando il viaggio, diciamo che io sono una persona abbastanza meticolosa nell'organizzazione del viaggio, questa volta ho lasciato un po' tutto al caso volontariamente, quindi molte le incognite, ma in realtà è stato tutto molto molto piacevole. Diciamo che effettivamente è proprio la premessa con la quale ho voluto aprire l'articolo, perché molte persone dopo il mio ritorno mi hanno contattato anche via social attraverso diverse piattaforme, nonché via mail, chiedendomi: Manuel, ma è pericoloso? E in realtà io ho piacevolmente risposto di no, perché comunque la zona è ben coperta e tranquilla, vive prevalentemente di turismo, per cui è una risorsa fondamentale. E proprio per questo motivo, insomma, ci si trova bene. Io ho attraversato diverse frontiere in cui vi erano militari che controllavano il passaporto con la massima serenità e tranquillità, e devo dire che non ho mai, tranne un piccolo episodio di cui magari parlerò più tardi, avvertito una sensazione di pericolo mai. Appunto l'hai detto tu, in questa organizzazione me l'avevi detto anche fuori onda, lasciato un po' al caso, ma perché? Perché volevi vivertela e godertene in maniera diversa, o c'è stata proprio una scelta perché hai detto no, lo lascio al caso perché voglio vedere come va? Sì, assolutamente, un po' il posto già avvolto, no, dal mistero, vuoi per la tanta cinematografia che c'è dietro, perché la stessa Petra comunque tramite Indiana Jones o magari anche altri film che viene nominata, oppure il film Lawrence d'Arabia, no, con Peter O'Toole di qualche anno fa, insomma c'era questa atmosfera di curiosità e di mistero, e mi sono detto ok, prenotiamo soltanto il volo, magari il posto per dormire, e poi vediamo strada facendo come andare avanti. È un po' quello che ho fatto, quindi è un po' frutto del caso, invece di fare magari il classico percorso prestudiato, preconfigurato, tappa dopo tappa, ho voluto un po' portare a zero il livello della noia, diciamo, ed è stata, devo dire a posteriori, fortunatamente una scelta positiva, ecco. Quindi la prima tappa appena sei arrivato in Giordania qual è stata? Allora, io diciamo che nella fattispecie io sono atterrato ad Aqaba, che è la prima, diciamo l'unica città del paese che si affaccia sul Mar Rosso, per cui c'era già questa piccola peculiarità e questa curiosità di vedere questa città che, come ho avuto modo di scrivere peraltro, insomma, rispecchia molto quello che è l'anima del paese, e che comunque pur avendo la lira giordana molto molto cara, diciamo che comunque nel cambio con l'euro un po' si perde. Questo per darvi l'idea della forza comunque della moneta, è un paese che ha comunque delle zone molto povere, questo lo si vede anche per le strade di Aqaba uscendo dalla zona, diciamo, turistica. però per il resto è una città che mantiene la propria anima e già dall'atterraggio si intuisce subito il forte impatto, no, della differenza culturale, anche perché è un paese che è in Asia, la Giordania, ricordiamolo, per cui c'è già un certo distacco culturale che si avverte subito, però poi ecco, a livello della sicurezza non ci sono problemi, la gente è molto cordiale, basta guardarli negli occhi che capirete subito un po' le loro intenzioni, che sono davvero amichevoli, per cui ribadendo l'aspetto della sicurezza, insomma, devo dire che non c'è problema. Quindi da Akaba poi mi sono mosso direttamente verso Petra, che è un po', no, il simbolo del paese, insieme ad Amman, la capitale in qualche modo, ma Petra è il simbolo universale, no? Quindi una delle sette meraviglie del mondo moderno, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, che è meraviglioso. Ci sono arrivato attraverso questo viaggio, queste 2 ore e mezza circa di macchina, no? Attraverso il deserto, imboccando questa strada dei re, la Kingsway viene chiamata, e l'ingresso al sito è spettacolare, perché c'è comunque una bella cornice, diciamo, è abbastanza scenografico, e poi quando arrivi di davanti ti toglie veramente il fiato. È una struttura che tanto ha la fama che la precede, effettivamente basta anche cliccare online e vedere foto, ma trovarselo davanti è davvero qualcosa di molto molto emozionante, devo dire. Ma il fascino, secondo me, cioè, te lo porti dentro da questa cavità nelle rocce, che poi arrivi in questo immenso spazio che sembra immenso dalla foto, poi non lo so perché non ci sono stato, è così? Sì, assolutamente. Diciamo che io invece ho avuto questa piccola avventura, ecco, quella che menzionavo prima, in cui ho avuto un attimo di timore che per fortuna è sparito subito, perché nell'ingresso, diciamo, c'è un paio di chilometri da fare a piedi, no? Che precede l'ingresso al tempio, che è il tesoro dell'antica città di Petra, questo famoso tempio. Ci sono delle guide locali molto, molto insistenti, e io, dopo aver naturalmente detto categoricamente no a diverse di queste figure, ce n'è una, un signore di nome Ali, che comunque ha insistito in maniera asfissiante, davvero un pressing degno del miglior difensore, penso, neanche della Serie A, della Champions League, tanto per essere efficace nella descrizione, e quindi alla fine ho ceduto al suo racconto, anche perché lui ci aveva detto che ci avrebbe portato diciamo sulla parte alta, con la possibilità di ammirare dall'alto il tempio, che è una delle cose che avevo in mente di fare, e seguendolo abbiamo invece deviato il percorso classico, quindi ci ha portato in una sorta di deserto. Questo viaggio l'ho fatto con una ragazza, quindi eravamo in due, siamo, di cui non conoscevamo nulla se non il nome, ammesso che fosse stato anche il suo vero nome, seguendolo attraverso questo percorso che era completamente in mezzo al deserto, non c'era niente, per cui un attimo di timore mi ha preso, mi sono detto ok, va bene, gli ho fatto un paio di domande, lui ha chiaramente capito le mie intenzioni, mi ha detto guarda, fate questo lavoro per vivere, è un'area protetta, stai tranquillo, non ci sono problemi, e mi sono calmato, e dopo questo piccolo diverbio, insomma, mi ha portato attraverso questo deserto, ci ha fatto vedere delle grotte bellissime in cui ci sono ancora le incisioni dei Nabatei, queste antiche popolazioni che effettivamente popolavano il territorio, una cosa veramente molto bella, e posti che non sono nemmeno citati nelle mappe turistiche, per cui è stato veramente bello, e seguendolo abbiamo imboccato quello che chiamano campando un po', no, sulla scia della diciamo del successo della pellicola di Indiana Jones, su una Indiana Way, così l'hanno chiamato, no? Però devo dire che è stato molto molto piacevole, a posteriori è stata veramente una scelta azzeccata, devo dire, perché tanto il percorso classico lo fai al ritorno, tornando indietro, ed è molto curioso perché c'è il Sikh, che è la famosa gola, no, che precede, che precede il sito, che è bellissima, che è, effettivamente è stata scolpita negli anni dall'acqua, nei secoli, perché lì vi passava effettivamente l'acqua, ed è meravigliosa. E arrivando lì ti trovi davanti Petra, ma è bello l'effetto contrario, devo dire, perché personalmente, avendo ammirato poi la città, l'anfiteatro e tutti i posti che puoi trovare, tornando indietro vedevo i volti dei turisti che arrivavano dall'altra parte e si trovavano insomma Petra davanti, vedevi questi volti meravigliati, sorpresi, ed è stata anche questa una delle cose devo dire più piacevoli. Quindi hai pensato, ma guarda, io me la sono goduta dall'altro lato, e loro invece, io vedo loro che sì, ma è stato un po' questo, però è stato veramente bello. Poi ecco, Petra è veramente meravigliosa, poi c'è la possibilità di fare tante cose anche all'interno dello stesso sito, ad esempio la classica passeggiata magari con i cavalli o con il cammello, che è un'esperienza esaltante da fare, che potrebbe essere fisicamente un po' pesante, soprattutto per le cosce, però io nella fattispecie questa l'ho fatta, ma non qui, l'ho fatto in un altro posto, e devo dire che anche quella è stata una scelta azzeccata. Ok, va bene. Manuel, sai che facciamo? Ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ci ascoltiamo un brano e ritorniamo in diretta con te qui su Radio Stonata per parlare ancora di Giordania. E ho qualche curiosità da chiederti prima di appunto poi farti lasciare la diretta. Quindi tra pochissimo qui su Radio Stonata. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E ritorniamo nuovamente in diretta qui su Radio Stonata. Questa qua è stata la colonna sonora dell'ultimo Spider-Man che avete visto al cinema, quello in cartone animato, quindi... Se siete appassionati di Spider-Man, io non l'ho visto, vi assicuro che non lo so Manuel, ma io lo Spider-Man non leggevo né i fumetti né vedevo i cartoni animati. Poi sono partito con il primo film al cinema e mi sono appassionato a Spider-Man. Tu hai queste passioni? No, sì. Ma in realtà no, nel senso che devo però ammettere che da bambino mi piaceva moltissimo, questo sì, avevo anche qualche fumetto, assolutamente. I film ovviamente credo di averli visti quasi tutti, per cui sì, mi inserisco anch'io nel club. No, siamo in diretta naturalmente con Manuel Gianantonio che ci sta raccontando il suo viaggio in Giordania. E io avevo alcune curiosità per il cibo, come ti sei trovato? Cioè, sai com'è, sono una buona forchetta, ti stavo prima raccontando fuori onda che da un po' di tempo ho ripreso a camminare, quindi capisci che sono una buona forchetta, ma col cibo com'è stato? Ma guarda, credo di essere, sono decisamente una buona forchetta anch'io, perché mangiare è una delle cose più belle, uno dei piaceri della vita, ed è anche uno degli aspetti più belli di un viaggio, no? Soprattutto quando si esce da un continente. Tra l'altro devo ammettere che mi sono trovato molto bene con il cibo, perché c'è comunque sostanzialmente un'alimentazione la loro che somiglia molto alla cucina mediterranea. Mangiano molto i salumi, c'è il shawarma ad esempio, che è uno dei piatti che mi è piaciuto di più, che è molto simile al kebab, cioè ma questa carne, no, di vitello o di pollo, che viene servita sul piatto accompagnata da verdure di diverso tipo, che magari sono anche delle verdure tipiche che loro usano, e usano molto, questa è una delle cose che ho notato immediatamente, il limone. Diciamo che comunque il limone viene spremuto sulla maggior parte di queste verdure che accompagnano i piatti, ma si mangia veramente bene. Una delle cose che mi è piaciuto molto sono le bevande, diciamo il tè e il caffè beduino ad esempio, quello l'ho veramente apprezzato molto, è un caffè molto corto, intenso, con un sapore forte e deciso, e quindi in qualche modo un po' simile al nostro. Diciamo che fuori dal mondo il caffè generalmente, fuori dall'Italia voglio dire, noi italiani siamo molto esigenti, come giusto che sia, almeno l'eccellenza, no? E devo ammettere che lì ho trovato qualcosa di molto simile a noi, e per cui mi è piaciuto molto. Quindi un caffè simile al nostro. No, sai cos'è perché ti ho chiesto di cibi e cose? Perché ho visto tra le foto che sono da corredo all'articolo il tè nella tenda berbera, quindi questa immensa struttura dove ci cucinano sopra, no? Immagino. Assolutamente, ma poi è stata quella nel Wadi Rum, no? Questo, diciamo, un'altra della tappa fondamentale di questo viaggio, questa valle chiamata Valle della Luna, che è sita a 1600 metri, che è incantevole, questa valle scavata appunto nei millenni, come dicevo, dallo scorrere di questo fiume nel suolo sabbioso e di roccia granitica, no, nella Giordania meridionale, e pensate al più vasto deserto del paese. Quindi attraverso la jeep e un berbero locale abbiamo avuto la possibilità di girarlo in maniera importante, e poi ci siamo fermati prima in una tenda a bere questo tè che è fatto appunto da loro, riscaldato dal fuoco, che è buonissimo veramente, e poi abbiamo avuto anche modo di cenare direttamente lì con loro all'interno di una tenda, perché c'è il campo, diciamo, base in qualche modo nel Wadi Rum, in cui ci sono queste tende dove è possibile anche pernottare, dove è possibile dormire, ed è veramente molto bello, perché lì ti senti parte di un gruppo, e sicuramente è l'impatto più diretto che puoi avere con la cultura giordana. Manuel, non so se tu hai altro da aggiungere, se no ti ringrazio per la tua disponibilità e ti do appuntamento a un prossimo viaggio in diretta qui su Radio Stonata. Volentieri, Volentieri, assolutamente. Ma è qualche altra cosa? Non lo so. Ma guarda, concludendo, io devo dire semplicemente che è un paese che mi ha dato molto e mi ha sorpreso molto. Per cui, se qualcuno ha dubbi o se relativi alla sicurezza, io mi sento di dire con una certa sicurezza che si può andare senza troppi problemi. Sicuramente è un viaggio esaltante da diversi punti di vista. L'incontro, lo spaccato dell'incontro, diciamo, con una cultura diversa come quella giappone, soprattutto con i berberi nel Wadi Rum, i beduini, è veramente un'esperienza bellissima. Poi ci sono questi luoghi incantevoli, non solo Petra, ma anche il Wadi Rum, Amman, Gerace e altri posti del paese che meritano tantissimo. Molte persone attraversano la Giordania e poi vanno a Gerusalemme, no? Come giro. Io mi sono fermato in Giordania per questioni di tempo, ma devo dire che sono stato assolutamente soddisfatto, per cui se me lo chiedono mi sento assolutamente di consigliarla in tutti i sensi, ecco. Va bene, quindi grazie ancora Manuel. Grazie a te, belle amici radioascoltatori. Ci risentiamo presto, ok? Ciao, ciao. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it